Qual è il tuo nome? Mi chiamo Ismael Ali Mukhtar. Da quanto tempo sei in Italia? Da circa 8 anni. Che professione eserciti? Allora, adesso faccio studente e lavoratore. Lavoro in Internet Point e poi sono iscritto alla facoltà di farmacia. Hai avuto qualche problema particolare in Italia, tipo con le istituzioni, con la lingua, con le persone? Ma non qualcosa di straordinario, no. Cioè, solo delle cose che ho incontrato anche nel mio paese. Cioè, dei gesti, no, che ho incontrato nel mio paese. Forse perché siamo in Umbria, che è un po' più tranquilla. E oggi com'è andata la giornata? Oggi sinceramente non ci aspettavamo tutta questa gente, ma allora significa che le persone veramente hanno capito il messaggio. Allora, il messaggio è passato, siamo molto contenti e questo è andato al di là di quelle che ci aspettavamo. Qual è il messaggio che speri sia passato di più in questa giornata? Il messaggio che è passato è che qui gli immigrati e italiani, quando si uniscono, diventano una forza. Questa è che gli immigrati che vengono qua, la stramaggioranza vuole vivere serenamente in questo paese, studiare e lavorare. Pensi che questa giornata possa portare a nuove modalità sia di relazioni che di organizzazioni sociali tra italiani e stranieri, insomma possa continuare, oppure pensi che finisca così? Questa iniziativa, che è stata promossa da migranti e italiani insieme, ha dimostrato che quando la base, cioè le persone semplici, si mettono insieme, possono far muovere le istituzioni, possono mettere anche paura ai sindacati. Questa iniziativa, per esempio, questo sciopero non è stato coperto dal movimento del sindacato, però è partito dalla base e quindi adesso si stanno mettendo paura, quindi non è più come il solito sciopero che si faceva a un tempo, ma abbiamo dimostrato che questo sciopero può partire anche dalla base. Perfetto, hai qualcos'altro da aggiungere? No, basta, dico che possiamo vivere, italiani immigrati, in convivenza civile. Grazie, ciao. Ci vediamo dopo.